moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Pomeriggio da Gigi Telesforo, appuntamento numero 99. Siamo quasi arrivati alla puntata 100 con quella di domani. Comunque siamo sempre qui su Radio 24 e siamo pronti per dare il via a una puntata molto funk da un punto di vista ritmico e sonoro. Questo per la presenza di un mio amico, un eccellente chitarrista italiano, reduce da una bella esperienza discografica con un organico ridotto in trio con una band che viene denominata Soul Jazz Unit, e vado a introdurvi il mio amico super funk Piero Masciarelli. Buon pomeriggio Piero, benvenuto al Soundcheck. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, è un piacere ed un onore essere qui con te. Ma è un piacere per me, perché noi ci siamo incontrati tante volte ma abbiamo fatto musica raramente insieme, abbiamo fatto anche delle prove ma non ci è mai capitato di realizzare qualcosa di concreto sul palco discograficamente, ma spero di farlo presto perché da sempre sei uno dei miei chitarristi preferiti sul versante funk. Come mai hai scelto questo genere? Come mai il suono della tua chitarra si rifà ai grandi musicisti degli anni 70 e soprattutto tu sei un musicista ritmicamente molto dotato? Ma diciamo è un fatto molto naturale per me suonare come suono, non è frutto di una ricerca precisa, e quindi mi ricordo che il primo disco che veramente a livello del funk mi ha influenzato è stato Secrets di Herbie Hancock, un disco dove c'è Johnny, dove c'è Wawa Watson alla chitarra e Ray Parker Jr. E diciamo tutti i miei fondamentali sulla chitarra ritmica vengono quasi esclusivamente da lì e da Ed Hunters. Ecco, allora, perché tu sei un chitarrista contemporaneo nel senso che non hai studiato chitarra classica come hanno fatto molti tuoi colleghi, ma direttamente ti sei buttato anima e cuore sull'approccio ritmico chitarristicamente parlando, utilizzando anche degli effetti che negli anni 70 erano molto utilizzati ma sono tornati in auge proprio come effettistica vintage. Anche John Scofield usa molto spesso il wah-wah. Che cos'è il wah-wah? Ma il wah-wah è un pedale che cambia fondamentalmente l'equalizzazione in un attimo della tua chitarra, quindi da un suono chiuso lo rende aperto e crea questo suono quasi quasi umano. Ecco, sul fraseggio, e il fraseggio tipico di Johnny Guitar Watson mi ha sempre riportato un po' al lavoro che tu hai fatto. Johnny Guitar Watson è stato un musicista importante per l'evoluzione della black music, anche se non molto apprezzato e molto conosciuto in Europa. Scomparso nel 1996, ha lasciato le penne proprio sul palco durante una tournée in Giappone, e qui lo ascoltiamo, anche se in questo brano intitolato Lone Ranger Johnny Guitar Watson non si diverte tanto con la chitarra, ma è un brano che io ho sempre amato perché ci dimostra anche che grande fraseggio aveva con lo scat, quindi con l'utilizzo della voce come strumento. Johnny Guitar Watson apre il soundcheck di oggi con Long Range. Johnny Guitar Watson con Long Ranger al soundcheck di Radio 24, nostro ospite il chitarrista Piero Masciarelli. Soundcheck. Il suono della musica. and me. Gonna climb this mountain, leave no child behind. Making a way out of no way for all of these children of mine. 'Cause you and me gonna climb this mountain, leave no child behind. Eh sì, questo è un album splendido prodotto dal mio amico Ben Sidran per la sua Go Jazz, una produzione della metà degli anni 90 con protagonista il leggendario chitarrista Phil Upchurch. Pensate che Phil Upchurch è stato il chitarrista della band di Donny Hathaway. Ci sono degli album dal vivo di Donny Hathaway con in evidenza Phil Upchurch non solo alla chitarra ma anche al basso elettrico, eccellente bassista elettrico. E qui da questo album splendido intitolato Love is Strange, il brano che abbiamo ascoltato era Leave No Child con la voce di Mavis Staples in un album pieno di guest, fra ci sono anche Chaka Khan, Bob Malak al tenore, i fratelli Peterson da Minneapolis, e fra gli altri vedi c'è anche uno di Foggia, perché io stavo proprio in quei giorni a Minneapolis al Paisley Park dove è stato realizzato da Prince questa produzione, e mi sono ritrovato a cantare un solo dischetto proprio nell'album di Phil Upchurch. Cose che succedono. Nostro ospite qui al soundcheck di oggi, il formidabile chitarrista funk italiano Piero Masciarelli. Devo dire che quando ascolto i tuoi dischi e i tuoi lavori non sembri proprio un musicista italiano, perché in Italia credo che manchi ancora la cultura dell'R&B, del soul e del funk. Credo che sia il genere che discograficamente parlando vende meno, sicuramente meno della musica classica e meno del jazz. Perché secondo te, Piero? Ma fondamentalmente penso che il groove, il ritmo che sta alla base del funk o dello swing, insomma della musica prettamente americana, sia qualcosa di molto lontano dal ritmo che c'è alla base della musica tradizionale italiana, e quindi questa cosa ha allontanato un po' e ha reso, diciamo, non istintivamente fruibile questo genere in Italia. Fortunatamente però i musicisti che seguono il jazz della nuova generazione hanno capito che bisogna conoscere e frequentare anche questo tipo di linguaggio e soprattutto di portamento ritmico, cosa che a te viene naturale, e vorrei dare subito un esempio agli amici di Radio 24 con questo progetto che si chiama Soul Jazz Unit, ovvero un classico organ trio con il bravissimo Emiliano Pari, che è anche un eccellente cantante all'organo, il mio groove master preferito parlando di batteristi italiani, Marcello Surace, e naturalmente Piero Masciarelli alla chitarra. Il brano che vi propongo è una composizione di Piero che si chiama Rhyme Car, proprio perché mi sembra che tu abbia pensato a questa melodia camminando, come spesso fanno i musicisti in giro per l'Italia nella tua macchina. Piero Masciarelli con Soul Jazz Unit al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Una puntata, la numero 99 qui al soundcheck di Radio 24, con un sound particolarmente funk per celebrare il nostro ospite, il bravissimo chitarrista Piero Masciarelli, con il suo nuovo progetto discografico Soul Jazz Unit. Tra l'altro sono in concerto in giro per l'Italia insieme a Emiliano Pari e al bravissimo batterista Marcello Surace, con il quale ne ho fatte di cotte e di crude, non so, alcune centinaia di concerti e diverse produzioni discografiche, con quello che considero il miglior batterista funk del nostro paese, con una grande esperienza sulle spalle. Com'è venuta l'idea di mettere su questo tipo di organico? Ma è venuta dopo una tournée in cui abbiamo partecipato io e Marcello con i Gabben. Eravamo, diciamo, la ritmica dei Gabben, e qualche mese dopo ho conosciuto Emiliano e diciamo è stato amore proprio a prima vista, perché aveva un background quasi identico al mio e un amore per il groove, per il funk, la musica nera assoluto. e ci è venuto subito in mente di io vedendo che era molto bravo anche con la sinistra, ho capito che poteva essere un ottimo organista, quindi insomma l'ho incoraggiato, lui ha abbracciato questo progetto e ci siamo messi in studio e abbiamo registrato praticamente in 4 giorni il disco. Ecco, io credo anche che la formazione dell'organ trio non è solo stimolante da un punto di vista sonoro e ci si muove all'interno dell'organico, musicalmente parlando, con una mentalità molto particolare, ma è anche una band comoda perché è trasportabile, facilmente trasportabile a parte l'organo, e quindi bisogna avere uno station wagon sicuramente. Allora, parlando di musica nuova, ti voglio far sentire un nuovo progetto, quello prodotto dal batterista Zach Nager, che va in giro sotto il nome di Zbonix, l'ho già presentato qui su Radio 24 con la partecipazione ormai di Gregory Porter, che è una star del jazz, ha vinto anche quest'anno il Grammy Award come miglior album jazz vocale. E allora Zbonix, Gregory Porter, il brano si intitola Nowhere to Run qui al Soundcheck di Radio 24. Intoxicated by the rush of doing things your way. You don't care what anybody says. If you would ask for a hand, you wouldn't be less of a man. Then your steps would be firm with a light on a brand new time. Gregory Porter con Zach Nager per Zbonix, Nowhere to Run. E ora chiudiamo l'appuntamento con un'ultima traccia tratta da Soul Jazz Unit, l'album si intitola Old School Recipes, ovvero una ricette tipicamente old school per questo organ trio creato da Piero Masciarelli con Emiliano Pari all'organo e il bravissimo Marcello Soraci alla batteria. Piero, è stato un piacere incontrarti al Soundcheck, spero di vedere prestissimo dal vivo questa band, non so se avete concerti in programma, ma sicuramente hai un sito internet dove poterti seguire le vicende o no? È tutto in costruzione, diciamo che adesso ci stiamo avvalendo soprattutto del social network Facebook e stiamo cominciando a pubblicizzare le nostre date, e è tutto in divenire, però insomma è tutto molto promettente e siamo molto contenti. È un piacere suonare la tua musica e il suono della tua chitarra da sempre mi fa impazzire. Qui al Soundcheck di Radio 24 chiudiamo con un'altra composizione di Piero intitolata Pentatonic. Vi raccomando, Soul Jazz Unit, non perdetevi questa pubblicazione tutta italiana ma dal sound tipicamente black. Grazie a tutti voi, buon ascolto, buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telesforo. Check. Il suono della musica.